I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Banchieri a rapporto ieri a Palazzo Chigi, in un incontro che ha visto la partecipazione dello stesso Premier Matteo Renzi, del Ministro per l'Economia Piercarlo Padoan, del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il CEO di Intesa San Paolo Carlo Messina, di Unicredit Federico Ghizzoni, di Uber Victor Massia. Si sarebbe parlato di una nuova manovra di stabilizzazione dell'intero settore bancario che da qualche giorno è bersaglio delle vendite a Piazza Affari, compresa la seduta di ieri che ha chiuso la peggiore in Europa con un meno 3% proprio a causa delle vendite sui titoli delle banche. Insomma, un piano di sistema a cui si sta lavorando da alcuni giorni e che vedrebbe anche il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti e delle fondazioni. E non a caso al vertice hanno preso parte anche i presidenti e CEO di CDP, nonché il presidente dell'ACRI Giuseppe Guzzetti. Sul tavolo è allo studio un meccanismo di garanzia che consenta di mettere in sicurezza i prossimi aumenti di capitale in agenda, cioè quelli di Popolare Vicenza e Veneto Banca, che si preparano a chiedere al mercato oltre 2 miliardi e mezzo. Tra i temi trattati naturalmente anche quello dei crediti deteriorati, che sono l'altra faccia del problema, considerando che solitamente la necessità di un nuovo aumento di capitale è dettata proprio dagli accantonamenti necessari a far fronte ai cosiddetti non-performing loans. Le prime reazioni sono state positive, come noto l'eventuale soluzione dovrà essere però di mercato perché l'Italia deve superare indenne il doppio esame della BCE e della Commissione Europea che si è mostrata particolarmente guardinga sulle soluzioni di salvataggio delle banche. In gioco però c'è la necessità di evitare una sorta di effetto contagio a tutta l'economia. Sarebbe una cosa drammatica in sé, ma sarebbe ancora più drammatica in una situazione che vede la ripresa italiana ancora molto gracile e addirittura destinata a indebolirsi ulteriormente. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Facendo discutere, sta suscitando non poche polemiche anche all'interno della maggioranza di governo la proposta lanciata ieri da Matteo Renzi di estendere il bonus da 80 euro alle pensioni di importo più basso. Il bonus, come sappiamo, viene oggi dato ai dipendenti pubblici e privati che hanno un reddito compreso tra 8.000 e meno di 26.000 euro all'anno. Interessa attualmente circa 10,5 milioni di lavoratori. L'annuncio di Renzi, se realizzato, avrebbe l'effetto di includere tra i destinatari di questo beneficio anche chi ha una pensione minima, per intenderci quelle che valgono circa 501-502 euro al mese, una misura che potrebbe interessare milioni di pensionati con un costo non proprio irrilevante per lo Stato. Bene, al di là di ogni polemica su Renzi, sull'effetto annuncio, sul sapore un po' elettoralistico di questa uscita, un po' populista, come ha detto addirittura il vice ministro all'economia Zanetti, non si può ignorare il tema dell'impatto di una proposta come questa sull'andamento dei conti pubblici, che resta l'argomento più solido della discussione, perché è certo che potrebbe essere corretto, forse anche equo, anzi sicuramente equo, dare 80 euro al mese in più a chi ne prende poco più di 500, ma nessuno può far finta che sui conti pubblici non esistano dei vincoli europei, per di più quando ancora non sappiamo se Bruxelles ci darà il suo benestare sui 16,5 miliardi di flessibilità che ci siamo presi già nella legge di stabilità del 2016. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.